Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritrovo con piacere, un po' di tempo che non ci sentiamo, il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, ben trovato. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Notizie di questi giorni purtroppo riguardano sempre più persone in Italia, la questione dei soldi a disposizione, i dati sono quelli dell'Istat, più di 4 milioni e mezzo di persone sono in povertà assoluta, cioè non hanno abbastanza per mantenersi. È un dato sempre più drammatico, perché ricordo di averne parlato qualche anno fa e non pensavamo di arrivare a questi livelli, Carlo. Sì, purtroppo Mirko, quando ci sentiamo non parliamo mai di dati incoraggianti, ed è vero che se ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, oggi i bollettini diffusi dall'Istat non fanno altro che confermare quello che sostanzialmente è un trend, ovvero come nel 2015 le famiglie che vivono in povertà assoluta sono oltre 4 milioni e mezzo di persone, quindi parliamo di dati che hanno raggiunto il massimo valore dal 2005, e per cui diciamo che tutti quelli che sono poi i proclami che spesso si leggono, che vogliono anche essere di incoraggiamento a far credere che insomma la situazione sia diversa, alla prova del 9 poi ci ritroviamo sempre al punto di partenza, ovvero che le famiglie povere sono tantissime e questo trend ancora non si riesce ad invertire. Purtroppo sono poi anche, mi pare, le famiglie numerose quelle che ovviamente hanno delle difficoltà in più, oltre magari agli anziani che già facevano parte purtroppo di questo conteggio. Sì, come hai detto te, gli anziani sono sempre la fascia più critica, ma è vero che quando si parla di famiglia, le famiglie normalmente che si trovano in questa situazione sono quelle che hanno almeno due figli. E sono famiglie che sono aumentate da 6,7 addirittura di 2014 a 9,5%, quindi con quattro componenti, con due figli, se ci sono coppie, poi il trend comunque non si smentisce, ma è sempre visto a rialzo. Per quanto riguarda gli anziani, invece, sappiamo che vivono sempre in povertà, quelli che hanno le pensioni minime e quelli che fanno sempre più difficoltà anche a curarsi proprio per effetto di pensioni minime o di stato di indigenza, che li costringono veramente in situazioni, come dire, indigenti. 4 milioni e mezzo in povertà assoluta, ma poi c'è anche chi è lì vicino, insomma magari sopravvive alla fine del mese o alla fine dell'anno, quindi in realtà parliamo di una fetta molto molto ampia della popolazione. Senz'altro, e c'è da dire una cosa tra i numeri diffusi nel bollettino, che tra le persone coinvolte 2.277.000 sono donne, mentre 1.130.000 sono minori e 1.013.000 hanno un'età compresa tra i 18 e i 34 anni. 538.000 sono gli anziani, quindi sostanzialmente chi se la passa peggio sembrano siano le donne rispetto agli uomini, anche se, ripeto, i dati sono molto incidenti, per cui comunque si parla sempre di cifre su un milione e quindi, come hai detto te, cifre che non fanno altro che fotografare una situazione che va sempre peggiorando. E aggiungiamoci anche l'altro dato che l'Istat ha diffuso in questi giorni, cioè quello del calo netto della natalità, in particolare poi soprattutto al nord e nel nostro Veneto ancora di più, quindi i giovani, le nuove generazioni sono numericamente minori, cioè sono meno rispetto almeno alla nostra generazione o a quelli precedenti, e in buona parte poi sono in difficoltà economica. Carlo, questo in prospettiva, lo abbiamo già detto più volte, in prospettiva fra 30, 40, 50 anni, cioè quando questi giovani entreranno, speriamo, nel mondo del lavoro, diventerà poi un problema di sostenibilità per il welfare, per il pagamento delle pensioni. Sicuramente, questo sarà un problema che negli anni non potrà che ripercuotersi, e il calo delle nascite sicuramente ne è una conseguenza, fermo restando che l'aumento dei flussi migratori vanno un po' in qualche modo, come dire, a compensare questo fenomeno, ma certo ci troveremo in un paese sempre meno italiano e sempre più straniero di questo passo. Questo è il movimento, lo dicono anche i demografi, appunto dall'Africa sta arrivando un'ondata demografica molto molto imponente, di cui noi stiamo vedendo solamente alcune briciole, ma nei prossimi anni ci sarà una tendenza molto maggiore rispetto a questo. Di questa situazione voi avete sentore anche nel vostro ufficio, allo sportello, cioè del fatto che ci siano più persone in difficoltà, in povertà assoluta, come dice l'Istat? Ma sicuramente persone che poi non hanno più soldi per curarsi, persone che non fanno più prevenzione, persone che comunque faticano a pagare il mutuo, comunque le situazioni sono di deterioramento, e certamente questo deterioramento ne peggiora anche un po' la qualità dell'utenza, perché poi dice anche quelli che sono immagini di intervento di fronte a situazioni di persone che non hanno proprio più risorse neanche per far valere i propri diritti, quando magari a fronte di certi ricorsi, di certe istanze, di certe situazioni sono richiesti magari piccoli contributi di costi unificati, di cancellerie o di soldi di raccomandate o di affrancature varie su documenti, di bolli, eccetera. E questo vediamo che sempre con più difficoltà tende a convincere le persone a far valere i propri diritti, speranzosi che in certe situazioni di indigenza invece li possano salvaguardare. Carlo, temo che torneremo su questo argomento prossimamente. Noi intanto ci auguriamo buon weekend, ci ritroviamo martedì sempre a quest'ora per un altro approfondimento. Ricordiamo associazione difesa consumatori.it. Alla prossima Carlo, buona giornata. Yeah. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.